Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Marez, ancora Leicester, alto traversone, palla per Albrighton, Albrighton! Esplode il King Power Stadium, Leicester 2, Siviglia 0. Tiro da fuori, c'è un gol incredibile di Casemiro! Incredibile di Casemiro, una fucilata che sorprende Reina, 3-1. Una fucilata che sorprende Reina. Può puntare Maxi Pereira nell'uno contro uno. Alessandro, pallone morbido sul destro, a cercare il tocco per Dani Alves. 2-0, 2-0. Ecco, cercato al centro il colpo di testa di Baccaio. Esagerato Pierre-Emerick Aubameyang. Alaba va al cross lungo verso Vidal che schiaccia Lewandowski, rete! Rete! Lewandowski, tutto riaperto adesso! Gavi arriva per primo, quindi Saul che prova a metterla in mezzo e colpo di testa, eccolo! Ecco Griezmann! 1-0 a Totti! 1-0 a Totti! Neymar, una nuova possibilità, 49-35, uno contro uno, se la porta sul mancino, va morbido dentro! Non ci credo! Sergi Roberto! Scusa Pardo, non ho capito chi ha segnato l'ultimo gol. Il signor Roberto Sergi. Come va? Adesso è chiaro. Sono a Roma, nella tua meravigliosa città. Come è andata oggi, ieri sera? Bene? Sei andato a vedere? È andata splendidamente, va da altra parte, sotto la guida di Pierluigi Pardo. Che hai mangiato? Secondo te? Cacio e pepe? Bravo! Cacio e pepe, carciofi, cicoria, un grande classico, vaccinara. Un grande classico dell'erotismo culinario. Proprio anche vaccinare, sì. Queste cose che non pratico. Io sono estremo. Con la pagliata, ho delle difficoltà con la coda da vaccinare. Non sono un vero romano. Così. Aspetto poi il tuo messaggio per prosecuzione prima di tornare nella Cupa Milano. Te l'ho scritto, quel posto sì, lì. Frequenterò. Intanto sono qui a Roma con Valerio Rocchetti, che sta aspettando la sua Roma. Torniamo oggi con tutti i convocati. Dopo che ieri non siamo andati in onda perché sole 24 ore, tempo di agitazioni, ieri hanno scioperato assistenti e tecnici e registi, e dunque massimo rispetto, siamo qui oggi, ieri non c'eravamo. Allora, abbiamo capito chi va a giocarsi la Champions League. C'è qualche sorpresa? Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona, Juventus, Leicester che senza Ranieri si è ripreso in campionato e passa sto turno, unica rappresentante inglese, anche questo è un altro tema su cui discutere, il Monaco che forse ha messo il timbro, il sigillo sulla fine del guardiolismo, questa è una delle cose che voglio capire oggi insieme a voi, Atletico Madrid, queste sono le magnifiche contendenti alla Champions League. Faremo insieme la griglia. Voi 800240024 ci prospetterete juventini e gufi, il vostro abbinamento preferito, e vi chiamo subito anche via sms 349-238-6666. Stanno arrivando a tambur battente novità sulla questione Milan, che poi approfondiremo dopo il GR delle 15, quindi attenzione perché ci sono nuove che stanno arrivando proprio in questi minuti e non sono incoraggianti per i tifosi del Milan, già lo dico. Parleremo anche del signor Paul Baccaglini, che ieri in un'intervista, insomma, Zamparini ha detto: prego che sia tutto vero. Questa frase lascia, credo, i palermitani un po'... incoraggiante. Lascia un po' in sospeso i palermitani. Allora, Pierluigi Pardo, Juventini e Gufi, sta griglia, come la mettiamo? La griglia, secondo me, è abbastanza facile da comporre. C'è il Bayern, ci sono le due spagnole, c'è la Juve, e poi secondo me c'è l'Atletico Madrid, direi quinta. Sì. Poi fra quelle tre io vedo il Monaco come la più pericolosa delle tre, poi il Leicester e poi il Borussia Dortmund, però cioè, sicuramente le ultime tre sarebbero squadre buone da affrontare. Fra le grandi forse il Real Madrid, se devo prenderne una, è quella che si adatta meglio, che si sposa meglio con le caratteristiche della Juve. Cioè, eviterei il Bayern, più di tutto eviterei il Bayern. Più di tutto eviterei il Bayern anch'io, non mi piacerebbe tanto un sorteggio caldeggiato peraltro da Bonucci, che ha, sai, da guerriero qual è al solito, da agonista qual è al solito, vorrebbe il Barcellona. Io Barcellona preferirei evitarlo, ma non so voi. Intanto ovviamente a Milano Giorgio De Luca, nostro autore, tornato a lavoro, Edoardo Lavezzari e Gianmarco Ferronato in regia. E cosa mi dici invece di Guardiola che fa sta fine, che viene rimontato, che viene sbattuto? Ma guarda, il CD di quest'anno è un disastro continuo. La distanza in classifica dal Chelsea, con tutto il merito di Conte, che va sottolineato mille volte, che sta facendo un lavoro eccellente, però mi sembra veramente che il City non sia all'altezza. Una squadra nata male, costruita male, assemblata male e onestamente allenata non benissimo. Mi dispiace, perché è chiaro che Guardiola è uno dei maestri di questi ultimi anni, però insomma i risultati sono quelli che sono. Ieri sera il primo tempo è stato imbarazzante, nel secondo tempo il City ha avuto tante occasioni e poteva sicuramente passare il turno, però francamente nelle due partite il Monaco non l'avrebbe meritato. Se lo merita il Monaco, perché il punto di partenza è nettamente più basso, perché ha lanciato tantissimi giovani, perché ieri ha giocato senza Falcao, che non è esattamente un dettaglio, senza Glick, che comunque è un punto di riferimento importante in difesa. Insomma, io credo che abbia passato il turno la squadra migliore, la squadra che ha giocato meglio, la squadra meno forte, ma che ha giocato meglio. Senti, dammi una parola di incoraggiamento per sto ragazzo, per Valerio Rocchetti, che è in regia e trema per la Roma questa sera. Spalletti dice: ce la possiamo fare, fiducioso, ostenta fiducia, ostenta ottimismo. Poi sappiamo bene come la Roma stia vivendo un momento abbastanza controverso, proprio per questo, insomma, distacco quasi tra Spalletti e la squadra, c'è una situazione poco chiara. Però io sono convinto che questa Coppa, l'Europa League, debba essere il primo vero obiettivo stagionale della Roma, oltre ovviamente a giocarsi il secondo posto, terzo posto con il Napoli. Allora, se parliamo da un punto di vista razionale ed economico, il secondo posto non ha prezzo, visti i precedenti delle italiane negli ultimi preliminari. Quindi facciamo un discorso di logica, il secondo posto è importantissimo. È chiaro che l'Europa League è chiaro che è bellissima, la verità è che è ancora molto lunga, siamo agli ottavi di finale. Insomma, se la Roma ha già bisogno di una piccola impresa stasera per passare il turno, non è una cosa pensabile, alla non portata, è neanche una cosa però, facile. Alla portata, sì, della, alla portata, ma è favorito il Lione. Insomma, secondo me è favorito il Lione, perché comunque ci sono due gol di scarto. È vero che la Roma ha fatto due gol all'andata, però insomma, ecco, deve fare una cosa simile a quella che ha fatto il Monaco ieri sera. Il City non è il Lione, il Lione secondo me è una squadra meno forte in assoluto come valori tecnici. La Roma se la gioca, insomma, secondo me siamo 60-40 per il Lione, 65-35 per il Lione, però con una buona partita, con una molto buona partita, la Roma passa al turno. Quindi partita di grande attenzione, sarà fondamentale non subire gol. Ti dico la verità, che per come la Roma, con giudizio, per com'è la Roma, vincere stasera, passare il turno stasera, sarebbe secondo me un clamoroso salto di qualità in termini di fiducia, perché questa è una squadra che fa sempre bene storicamente, ma che poi tante volte si squaglia sul più bello quando deve fare la rimonta. C'è ancora il ricordo a Roma dello Slavia Praga di tanti anni fa, una quindicina, no, una ventina anni fa. Cioè, mille volte la storia della Roma è stata, no, pure stata dal classico Roma Lecce, dal classico Roma Sampdoria. Insomma, stasera è una di quelle serate dove la remontata è possibile, difficile ma possibile, e penso che darebbe una grandissima spinta anche per esempio in Coppa Italia, dove la remontata è ancora più complicata, perché sì, la vedo più difficile, onestamente. No, certamente più difficile, anche perché poi comunque un derby non è mai esattamente una partita, no, dove il fattore campo può pesare come in una sfida con una squadra di un altro paese. Poi bisogna capire pure che tipo di pubblico ci sarà, perché sappiamo che anche lì c'è molta discussione, diciamo. Sì, poi insomma, dando un'occhiata alle altre rimaste, mi sembra che tutto sommato la più grande avversaria potrebbe essere il Manchester United, quindi c'è una bella sfoltita insomma in questo turno di Europa League. Vale la pena affrontare la partita di stasera con la massima fiducia. 800 24 00 24, traffico, griglia. Chi volete nei sorteggi da Juventini, chi volete nei sorteggi di Champions da Gufi, che siete sempre benvenuti, lo sapete, secondo il nostro assioma che predica un libero gufismo. Ci fermiamo, traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Vorrei evitare il Leicester, quello sì, perché infine per me è una squadra pericolosa, una squadra che avrà entusiasmo, una squadra che ha le armi per fare male alle squadre che vogliono fare la partita, e per cui è l'unica che non vorrebbe, che poi c'è anche tutto da perdere. Un po' dice l'Ester, perché dice: se becchiamo l'Ester veniamo buttati fuori, così ce lo fai. No. Sarebbe un grosso stimolo per noi incontrare la squadra che ci ha fatto perdere in finale 2 anni fa, e quella che secondo me adesso è nella migliore forma psicofisica dopo una rimonta come quella contro il Paris Saint-Germain. Se dovessi scegliere chi non evitare, dico Bayern, perché secondo me è una squadra completa che con Ancelotti ha trovato un altro modo di interpretare il calcio, però sempre vincente come gli anni passati con Guardiola. Sono tutte teorie bizzarre queste che abbiamo sentito da Buffon, Allegri e Bonucci, no? Buffon e Allegri che vogliono evitare il Leicester, che io mi piglierei con due mani se fosse possibile, fossi juventino, e mentre Bonucci dice Bayern Monaco meglio di no, e questo ha un senso. Vorrei il Barcellona, che invece eviterei come la peste. Bah, ma ognuno sì, ma queste sono tutte cose che si dicono per complicare, no? Per fare un po' di casino, dai. Per fare un po' di casino, un po' di cacciara. Penso che ci sia un fondo di verità in quello che dice Buffon sull'Leicester. Cioè, il Leicester è una squadra. Poi qua bisognerà aprire una parentesi, ragazzi, perché io ho letto una serie di tweet, di commenti. È ovvio che a noi ci rode. Sì. E non per eleganza non dico neanche cosa ci rode. Perché chiaramente vogliamo bene a Ranieri, perché Ranieri ha fatto una grande impresa, però insomma io leggo delle robe, hanno fatto bene i dirigenti all'Ester, punto, c'è poco da fare, il calcio è un mondo strano, è un mondo nel quale spesso non c'è fedeltà, no, nelle quali qualche volta puoi pensare anche che i giocatori si comportino male. Qui ci sono delle soluzioni estreme, delle però, ipotesi estreme, delle situazioni estreme, io credo, come era no, questa. Sai perché quello che, come poi io spesso faccio 0-0, però delle volte invece mi piace proprio essere Bastian Contrario e dire delle cose, nel senso che qui siamo di fronte a una roba che, vista dall'Italia, nei confronti di una squadra della quale non ce ne frega niente, è piena di gente che dice vergogna, ma pure se retrocedi, ma che te ne frega? Voglio vedere se succede alla squadra nostra. Qui la verità è che Ranieri ha vinto il campionato facendo un'impresa che nessuno gli potrà togliere. Gli è stato fatto un contratto per tanti anni, giustamente, strameritato, e ci mancherebbe altro. Ha iniziato il lavoro, poi qualcosa si è rotto. E certo, i dirigenti di questa squadra hanno fatto, purtroppo, lo dico mille volte, purtroppo bene a cambiare allenatore. e i numeri lo dimostrano. Poi su quanto siano mutevoli gli equilibri di uno spogliatoio e su quanto tutto questo ci faccia del male, perché stimiamo, certo, Ranieri, ma io perché avremmo voluto che questa tavola continuasse con lui, questo gridando è indiscutibile. Forza Siviglia, è chiaro che facevamo il tifo per il Siviglia. Ho capito di chi è la colpa allora. Ma infatti me la danno, me la attribuiscono, me la attribuiscono Mario che scrive, volevo ricordare che c'è l'Ester ai quarti in merito di gente che non è dia che ha puntato Orlando però, Forza Siviglia. Però mettiamoci un attimo nei panni, no, della... Ma io sono d'accordo con te, ci sono delle situazioni estreme in cui quando il rapporto tra l'allenatore e un gruppo non è più ricostruibile, ti fai solo del male nel confermare, esatto, nel confermare quell'allenatore. Maurizio Grosetti da Repubblica, cioè, è in linea. Eccoci. Ciao Maurizio. Eccoci. Queste sono situazioni di contrabbando, come direbbe Paolo Conte, quindi il contrabbando bisogna farlo conoscendo le regole dei contrabbandieri, e l'unica regola dei contrabbandieri è portare a casa il risultato. Il Leicester l'ha portato e questo è il calcio. Quindi sei d'accordo con quanto dice Pardo? E con sì, la realtà è questa, era scappata di mano la squadra a Ranieri, che dopo un secondo, un minuto, un istante, dopo aver raggiunto quel risultato, già sapeva di essere, non dico condannato in questo modo, ma di essere entrato in una nuova epoca e bisognava ritirarsi quella sera, ma non poteva, è giusto che non l'abbia fatto. Però col senno di poi doveva probabilmente cambiare aria. Sì, siamo d'accordo tutti. Io penso pure, conoscendo Ranieri e stimandolo tantissimo, io penso che nella testa di Ranieri ci sia anche un minimo di dubbio, essendo una persona intelligente, sul fatto che forse anche lui poteva approcciare questa stagione in maniera diversa, no? Cioè io quando un allenatore approcciare questa stagione da un'altra parte, era io questa non, l'unica sicuramente. Ma sai, quando un allenatore è un po' quello che diceva l'altro giorno Spalletti, no? L'allenatore comunque è sempre la sintesi tecnica, quindi alla fine è sempre quello che risponde dei risultati. Poi se i risultati non arrivano perché i giocatori sono degli stronzi che gli hanno voltato le spalle, questo ci può anche stare. Però alla fine non c'è niente da fare, te li devi portare dalla tua parte. Quindi nel momento nel quale ci riesci, come ha fatto meravigliosamente nella passata stagione, è giusto beccarti tutti gli applausi del mondo. Nei momenti nei quali non ci riesci, è inutile nascondere la realtà. E io, tanta stima di Ranieri, sono convinto che dentro di lui ci sarà il pensiero che forse qualcosa quest'anno la poteva fare diversamente, che qualcosa non ha funzionato. Beh, è troppo facile dire. Infatti, io direi è troppo facile dire che i calciatori sono degli stronzi. No, ma che siano degli stronzi è in buona parte spesso vero. Poi detto questo, Ranieri sa che degli errori li avrà commessi nell'approcciare questa stagione. E l'errore capitale, è chiaro che non è facile dire di no a un contrattone come quello che gli è stato sottoposto, però quando hai raggiunto qualcosa di irripetibile, la soluzione migliore è sempre cambiare aria e magari andare a monetizzare da un'altra parte. Comunque nessuno gli toglie l'impresa della storia, ma nessuno gliela toglierà mai. Il quarto di finale di Champions League è un obiettivo importante, adesso vedremo se andrà avanti il Leicester, ma quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso rimarrà per sempre nei libri della storia del calcio e nei suoi ricordi più belli. Quindi il godimento Ranieri se lo deve tenere stretto, e tutti noi italiani che siamo per lui ce lo dobbiamo tenere stretto. Ma no, ma vale un po' di discorso, facciamo. È da uomini anche interrogarsi sul fatto che c'è stata un'altra stagione e questa stagione non è andata bene. Certamente. I calciatori, gli allenatori che sono abituati da sempre alla performance, questa cosa ce l'hanno in mente probabilmente molto più di noi che della vita facciamo altro. Certamente. Maurizio, abbiamo sentito varie voci, alcune voci juventine. Buffon e Allegri vogliono appunto evitare il Leicester che fu di Ranieri. Bonucci vorrebbe il Barcellona per prendersi la rivincita della finale di due anni fa. Io il Barcellona, potendo, lo eviterei, mentre il Leicester me lo piglierei a due mani. Io pure, anche se qui forse si è di fronte a una scelta, cioè tu vuoi essere quello che ha tutto da perdere o quello che ha tutto da guadagnare. Se vai contro il Leicester hai tutto da perdere, se vai contro il Barcellona hai molto da guadagnare, ma è più probabile che tu perda. È idem col Bayern, idem col Real, però fino a un certo punto. La Juve di quest'anno secondo me non parte battuta contro nessuno, e se la giocherà, se la giocherebbe, se la giocherà contro qualunque avversario. È chiaro che ci sono avversari più deboli tra questi sette potenziali, e il Leicester è uno dei più deboli certamente. E poi il Borussia Dortmund, forse attenzione forse al Monaco, attenzione al Monaco. No, Monaco è molto forte. Monaco è molto forte, molto scivoloso, presenta le stesse caratteristiche dell'Leicester, se vogliamo, cioè una squadra che comunque non ha nulla da perdere, con molta più qualità individuale. Il Monaco è terrificante, non solo perché ha fatto fuori in quella maniera il nostro amico Guardiola, ma è una squadra emergente, il più vecchio ha 13 anni, credo, no? Sì. E quindi sì. No, evitare assolutamente il Monaco. A proposito di Guardiola, nostro amico, io mi tiro un attimo fuori perché insomma, ovviamente mi alzo in piedi di fronte a Guardiola, ma non sono mai stato uno che si citava più di tanto al suo Barcellona. Preferivo quello di Luis Enrique che ha fatto il triplete, ma sono gusti personali. Però è la fine del guardiolismo, ci sono vari allenatori, vari top coaches che hanno fallito in questa stagione. Il primo è più evidente, Guardiola. C'è Mourinho che non sta facendo certamente bene con lo United, c'è Ranieri di cui stiamo parlando, c'è Emery, il mago dei confronti diretti, che ha subito una remontata dalla quale farà fatica a riprendersi, credo, anche emotivamente per i prossimi anni. Diversi allenatori che insomma stanno in qualche modo, sono in qualche modo deprezzati, mettiamola così. Pardo. Sì, l'anno c'è un po' di caduta dei grandi, di alcuni, perché poi Ancelotti invece è vivo e lotta insieme a noi alla grande, e Allegri sta facendo benissimo, Conte sta facendo benissimo, sì, insomma sì. Simeone sta comunque facendo bene. Il discorso è anche un po' vago, messo così un po' vago. Secondo me su Guardiola c'è il fatto che lui ha costruito un'epoca d'oro con una squadra di un certo tipo, con dei giocatori di un certo tipo, e poi già dai tempi del Bayern questo tipo di modello non è riuscito a replicarlo al 100%. Poi il Bayern ha dominato i campionati in Germania, ma quello, sai, non è rilevante perché è quasi dato per scontato. E arrivi a giocarti tutto in 2, 3, 4 partite decisive in stagione in Champions League, e sicuramente Guardiola lì non è andato benissimo. Adesso io trovo che il fallimento di quest'anno in Manchester City sia la cosa più grave della sua carriera, perché comunque il budget è tanto, perché la squadra è stata costruita male. Tu pensa alla situazione portieri, che cosa è stata, no? Certo. Tutto sommato Hart in quella rosa lì poteva starci bene, no? O quantomeno, insomma, non mi sembra che si sia migliorato con Bravo, con Capacero, con... Insomma, no, assolutamente ci starebbe bene Donnarumma in quella squadra lì. Qualcuno ha paura, infatti, dalle parti rossonere, perché... Però insomma, ecco, mi sembra il fallimento principale della sua carriera. Sì, ma una carriera giocano, non ne aveva avuti. Onestamente giocano davvero che è uno schifo, Maurizio. Giocano come una squadra che non sta bene insieme, che è stata assemblata male, come dice giustamente Pierluigi, e che non può replicare nessun sogno sognato in notti altrui. Voglio dire, non puoi diventare il Barcellona, perché Guardiola non è stato il Barcellona, nemmeno il Bayern di Guardiola. Più che il guardiolismo, finiscono alla fine i giocatori che rendono possibile un certo movimento, un certo meccanismo. Il tiki-taka del Barcellona classico è finito, quasi finito, più che con la partenza di Guardiola, con quella di Xavi. È un po' come quando la Juve ha perso Pirlo, poi ha dovuto cambiare completamente pelle. Il modo di giocare. Sì, ma sai, per un allenatore integralista è difficile, per gli allenatori integralisti è difficile, e Guardiola è un talebano, così come lo è Mourinho. Lo so, però i talebani vengono sempre, in ogni caso, sulla scia dei giocatori, cioè il carro di qualunque squadra, di qualunque tattica, di qualunque epoca è sempre guidato dai giocatori, e non si tratta di fare la guerra di religione se con Sacchi, se con Trapp, se con Guardiola, se con Conte. Prima sempre i giocatori. La bravura del grande allenatore qual è? È quella di adattare le proprie idee al materiale umano che ha, ma sempre prima i giocatori. Ed è per questo che io dico che Ancelotti, da questo punto di vista, è il numero uno, e che Allegri è sulla scia, e che Allegri è sulla scia di Ancelotti. E Allegri è di quella scuola. È di quella scuola. Cioè, non sono talebani, hanno le loro idee, giustamente, però allenano in un altro modo rispetto ai Guardiola, ai Mourinho e agli integralisti di cui sopra. Io ringrazio Maurizio Crosetti. Ciao, grazie a voi. Alla prossima, Pierluigi Pardo sta lì, adesso sentiamo la borsa, poi torniamo anche sull'argomento della fine di questo guardiolismo, di questa filosofia, da dove può ripartire Guardiola eventualmente, se dall'Inghilterra o da un'altra parte, e parleremo anche della crisi di un calcio che è quello inglese, che sarà il più ricco, il più appetibile, il più sexy per i mercati orientali che lo coprono di denaro, e che però in Europa non combina nulla ormai da un sacco di tempo. Tutti convocati. I just can't get enough. I just can't get enough. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Certo, vi convochiamo tutti, 800 24 00 24, come ogni giorno, con il mio amico Pierluigi Pardo. Andrea, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti, volevo fare la mia classifica. Allora, prima deve dirmi se è Juventino o UFO. Juventino. Va bene. Allora, prego. Io dico le tre che non voglio prendere per vari motivi. Uno, sì, il Bayern, perché è più solido. Sì. Due, l'Atletico Madrid, perché Simeone mi fa paura. Sì. Terzo, il Monaco per gioventù. Nel senso che la gioventù è rischiosa, perché posso fare grandi partite e quindi mi fa paura. Queste tre non voglio prenderle. Quindi il Barça potrebbe andare. Barcellona, perché secondo me, io ho visto le ultime 5-6 partite del Barcellona, è vero che ha fatto una gran partita con il Paris Saint-Germain, grazie anche al Paris Saint-Germain, ma ne ho viste 3-4 che era veramente... alla frutta, Sì, non è stato un lampo che Pardo ha visto. Ho visto la Madonna, no? Come Fantozzi sopra la traversa, ti ricordi, in quella famosa scena del film. Hai visto quella remontata, però quell'energia può anche svanire, può anche evaporare, poi, anche se i bookmakers poi hanno detto. Hanno detto Barcellona a questo punto favorito per la Champions League, ma l'abbiamo detto anche noi, perché quando fai una cosa così può essere quasi un segno del destino in un mondo strano come questo del pallone che rotola sul prato. Sì, e tra l'altro quella partita lì, lo diceva anche l'ascoltatore, è stata anche in qualche modo condizionata dal suicidio del Paris Saint-Germain. So che è paradossale parlare dopo 6-1 così, sembra quasi togliere dei meriti ed è assurdo farlo, però sicuramente il Paris Saint-Germain ci ha messo il suo. Io sono colgo la provocazione dell'ascoltatore, sono d'accordo, sicuramente l'Atletico Madrid è una squadra rognosa, sicuramente il Monaco è un Leicester elevato al cubo. Se posso togliere una, tiremo il Bayern, perché è la più forte, la più solida, quindi sono d'accordo. Detto questo, poi alla fine io credo che se devi scegliere tra Barcellona e Monaco, diventi Monaco con tutti i rischi del caso, o fra Real Madrid e Atletico diventi Atletico con tutti i rischi del caso. Sì, però è vero, secondo me è diventato delle caratteristiche. Real e Barcellona in questo momento non è che siano benissimo, però sono Real e Barcellona. A parte che si gioca il 12 e 19 aprile, per quelle settimane lì, quindi manca un po' di tempo. E quindi anche i flussi di condizioni di forma potrebbero cambiare da qui a un mese. Sì. Quindi non è conta abbastanza il valore delle squadre. Senti, dimmi una cosa, en passant, ho letto con grande gusto il retinato grigio il fondo di Cristiano Gatti sul Corriere della Sera a proposito dell'autogol del Paris Saint-Germain, di questo dossier inviato alla UEFA e rispedito immediatamente al mittente sugli errori arbitrali. C'è l'amico Cristiano Gatti che scrive: ecco, certe volte noi italiani o facciamo scuola o comunque non siamo peggio di altri nell'accogliere le sconfitte. È stata onestamente una brutta figura quella del Paris Saint-Germain, una brutta figura. Però il rigore del 5-1 è un rigore che per me non c'è, anche se lo so Pierluigi, però in una cosa di questo genere per forza nel pacco ci sta anche l'errore arbitrale, Sì, però siccome, perché non come più l'Ester prima, perché l'Ester manda via la Ranieri, è perché poi bisogna camminare, come dicono gli inglesi, per qualche minuto nelle scarpe di qualcun altro. Allora, se noi fossimo tifosi del Paris Saint-Germain, al netto della figuraccia, al netto del fatto che comunque ha perso per colpa sua, però senza quel calcio di rigore la partita finisce 4-1 e il Barcellona finisce tra gli applausi, il Paris Saint-Germain torna a casa un po' malconcio, ma un po' testo, ma col turno passato non troppo, perché poi alla fine se tu fai finire la partita sulla posizione di Neymar, 4-1 sembra una posizione a tempo scaduto, e invece quello è l'episodio che cambia tutto. Questo lo dico perché bisogna essere onesti, secondo me, nella valutazione degli episodi. Detto questo, rimane l'impresa del Barcellona, oltretutto il Paris Saint-Germain alla sfiga che la remontata se l'è beccata contro la squadra del secolo, contro la squadra del momento, nella partita, e quindi è ovvio che che anche da un punto di vista mediatico, per cui recriminare per un calcio di rigore sembra una inaccettabile caduta di stile fatta da ti fa sembrare un po' figato, capito? Per una squadra così ricca, così potente, così glam come vuole essere, pretende di essere in parte in una finale di Coppa Italia, allora la prima cosa che ti aspetti, la prima cosa che ti aspetti è che parta diretto il dossier arbitrale verso gli uffici competenti. Francesco, Firenze. Salve a tutti, forza Viola, e una cosa velocissima, a parto, innanzitutto grazie della convocazione, a parte un invito, quando passa a Firenze una spaghettata alle vongole non gliela toglie nessuno qualora volesse venirci a trovare, sono sicuro che sarebbe un ottimo commensale. Le vongole a Firenze? Le vongole, appunto, certo. Stavo chiedendo. Deve sentire come le fa mia moglie, signor Pardo, verrà, si rifarà la bocca. Io devo dire una cosa velocissima su Guardiola. Secondo me si sta facendo un funerale anzitempo. Ieri ha giocato male, tutto quello che volete, non ma ricordatevi ieri, che gioca in una società che non ha esperienza europea e che è stata bloccata dal fair play finanziario, che per me è una bestemmia. È una bestemmia il fair play finanziario, perché impedisce alle squadre piccole di crescere. Dategli qualche anno, che magari uno o due anni, che costruisca una squadra seria e tornerà a essere Guardiola. Grazie a tutti e forza Viola. Grazie Francesco e buona spaghettata con le vongole. Saluti alla signora. Mi sta venendo la voglia di vongole, fra l'altro sono le 2:41, non ho pranzato. Adesso, ma scusa, che adesso no, ti manda a pranzo, 2 minuti. No, 2 minuti. In questi 2 minuti volevo dire che è molto interessante quello che ho detto prima sul calcio inglese, nel senso che questo non toglie nulla, secondo me, alla bellezza del campionato inglese, la Premier League. Io lo amo dai tempi in cui non era il miglior campionato, il più ricco del mondo, certo, quindi figurati se non lo però amo adesso però è più sexy, è il più ricco, è una cosa quasi darwiniana, quasi sentita, no? Cioè, quando tu droghi un mercato mettendo tanti soldi, non è detto poi che tu questi soldi li spenda bene, cioè no, in qualche modo vale per le vite di tutti. Se c'hai tanti soldi, inevitabilmente una parte finisci per buttarla. O anche quando vai a fare mercato, probabilmente le altre società sanno che tu hai più soldi e li vendi. E voglio dirti, sì, questo capita. Ma lo stesso Otamendi, questo sono capita. Buoni giocatori. No, sono d'accordo per Luigi. Otamendi è un buon giocatore che è stato pagato 45 milioni di euro. Esatto, è una roba che non sta né in cielo né in terra. E tu 56,5. E tu 56,5. E no, poi voglio dirti, quindi. È abbastanza sorprendente, però, perché. E poi va a comprarle a prezzo di saldo. Cioè, Salah è un. Lo stiamo vedendo, è un grande giocatore che praticamente gli inglesi hanno scartato. Ma ci sono diversi casi in cui possiamo toccare con mano questo trend. Rimangono i numeri: negli ultimi 5 anni, per le squadre inglesi, 4 squadre ai quarti di finale di Champions League, 2 in semifinale sono il Chelsea del 2014 e il City del 2016, nessuna in finale. Ultima coppa alzata, la Champions del 2012 con Di Matteo. La crisi è enorme. E, fra l'altro, l'ultima, è fatto bene a ricordarlo, l'ultima Champions vinta è vinta da una squadra che dovrebbe dire, non si sa come l'ha vinta, premesso che l'ha vinta, devo dire, è stata anche molto romantica come cosa. Io ho fatto la semifinale Barcellona-Chelsea, ricordo una delle partite più spettacolari della vita, però ecco, era già un Chelsea di fine corsa quello lì, quindi l'epoca d'oro invece con le 3 inglesi nelle semifinali, col Manchester United che dominava, con l'Arsenal che era competitivo a livello veramente internazionale, col Chelsea d'oro, ecco, forse il Chelsea di Conte, se continuerà a Stamford Bridge, può diventare una grande sì, protagonista. Non essendo Conte, esattamente. Intanto la cosa banale è che i soldi non danno la felicità, perché se compariamo dal punto di vista economico la Premier League e gli altri campionati, non c'è veramente partita, cioè dovrebbero dominare, e invece dal punto di vista tecnico dominano altri paesi e domina soprattutto Spagna. Io prima di salutare Pardo, anzi lo saluto, ti lascio andare a mangiare. No, ma sono qui a una mostra, una fiera a Ricchi. Vabbè, troverai qualcosa da mangiare anche alla spero almeno una piadina, ci sarebbe la vongola, mamma mia. magari dopo verso le 3 dopo. Ciao Piero, ciao. Saluto a Filippo Maria Ricci invece. Ciao Filippo, buon pomeriggio. Vorrei che ti inserissi in questo discorso che parte dalla fine del guardiolismo. Tra l'altro risulta che su alcuni giornali spagnoli si sia scritto ma Pep, perché non torni a casa adesso che sei in una situazione un po' di depressione? Però non torna, lui l'ha già detto, ha già detto che non torna, però. Ah sì, anche Capello aveva detto alla Juventus, ma poi mai. Però secondo me non torna, perché comunque lì c'è, lui è in, c'è un problema politico e con questa dirigenza non tornerà mai. Lui era legato alla Porta, è andato via quando sono arrivati questi dirigenti, ha resistito un anno, non li supporta, e, diciamo, il sentimento reciproco. E a Barcellona può sembrare anche strano, c'è tanta gente che, diciamo, c'è tutto un filone governato da questa dirigenza che poi sposa in alcuni giornali che odia Guardiola, non si sa bene perché, però insomma sono questioni politiche, lì si entra veramente in un territorio molto rischioso, per cui sì. non lo vedo rientrare. Non lo vedi rientrare a casa? No, a casa no. È chiaro che adesso io non sono d'accordo sulla fine, sul, diciamo, il fallimento, per usare la parola spagnola, il fracasso assoluto del guardialismo. In tre semifinali a Monaco, insomma, non sono chiaro, non valgono una Champions, però erano lì, era già qualcosa. E specialmente uscendo sempre con squadre spagnole, attenzione, questa è una nemesi importante. Sì. E quest'anno il City è una squadra abbastanza ridicola. È chiaro che uno dice l'anno scorso sarei arrivato in finale, non si sapeva bene come. Dopo il finale, veramente una squadra patetica. E sì. Il problema è che torna a quello che si diceva prima. Sì, però anche a Barcellona non l'abbiamo visto. Cioè, a Barcellona, anche a Monaco, dove pure c'erano giocatori, c'erano soldi. Ha fatto tre semifinali, ma non ha mai dato. Aspetta un attimo, guarda, facciamo così: ho il traffico che incombe, ne parliamo con calma subito dopo. Tutti convocati. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Tutti convocati. Gentili ascoltatori, vi invito a chiamare innanzitutto 800240024 per pronosticare il vostro sorteggio ideale da Juventini oppure da Gufi. Vi invito a rimanere con noi perché dopo il GR delle 15 andremo forte sull'argomento Milan. Stanno arrivando queste cronaca proprio in queste ore, in questi minuti, delle notizie importanti e non propriamente incoraggianti per i rossoneri. Parleremo anche di Baccaglini. Ricordo le parole di ieri di Zamparini, prego che sia tutto vero, non esattamente incoraggianti. Allora, con Filippo Maria Ricci invece vorrei tornare sul guardiolismo, su il talebanesimo di Guardiola che pare finito con il Manchester City. No, il tema è il non sapersi adattare. Certo, non mi sembra una cosa paese, da poco. Si cambia calcio? No, però attenzione, c'è un aspetto romantico, sì, secondo il quale lui vuole imporre un bel gioco. Adesso non si può, perché io non sopporto quelli che dicono ha vinto col Barcellona, adesso con quel Barcellona ci vince pure Luis Enrique, che mi sembra altamente insultante nei confronti dei due tecnici, perché quello che Guardiola ha fatto col Barcellona è stato cambiare un pezzo di calcio, un momento storico, un momento storico del calcio, questo è indiscutibile. C'è il Barcellona di Guardiola che aveva certi interpreti non replicabili, e non c'è che non il Barcellona di Luis Enrique. Però il mio discorso è quasi, stiamo facendo della filosofia, Filippo, questo è evidente, però io sono per tecnici più pratici, più pragmatici. Cioè, mi prendi Ancelotti, ovunque tu lo piazzi finisce per prendere per le orecchie il sogno di tutti questi grandi club, no? Sì. E sulla stessa strada io vedo un altro tipo come Massimiliano Allegri, no? Però non so, Ancelotti per esempio col Chelsea sono la vita, per esempio, cioè lui l'ha vinta con Real Madrid, adesso vediamo se la vince col Bayern. No, che è tutto relativo, poi lo dico, Paris Saint-Germain da sempre sono la vinta, è riuscito a perdere una Liga anche lasciandola al Montpellier, cioè bisogna sempre vedere le cose è chiaro, Guardiola è facile da criticare perché è uno che va sempre a petto scoperto, basta guardare la partita di ieri sera, veramente un suicidio tattico, no? Sì, senza probabilmente. Esatto, e quindi questo condiziona poi tutti, anche tutti i giudizi. Io tendo sempre ad avere una certa una simpatia, però è chiaro che adesso è difficile difenderlo. Però torniamo, io prima stavo facendo un discorso, mi sembra abbiate citato Otamendi, no? Come esempio di spesa un po' inutile. Non inutile, eccessiva. Sterling. Sì, esatto, eccessiva. No, ma il calcio inglese è indubbiamente drogato è indubbiamente drogato dal suo sex appeal che porta a vendere diritti televisivi ovunque nel mondo, e dunque abbiamo un campionato di sceicchi, nel senso calcistico, di squadre enormemente ricche. E anche un calcio inglese che tu, peraltro, avendo lavorato per molti anni in Inghilterra, conosci bene, è un calcio che sta fallendo in Europa, e questo mi sembra un altro dato su cui ragionare, su cui riflettere. Però vedi, esatto, all'inizio del secolo, quando io ero lì, in Europa le cose andavano meglio, perché probabilmente c'erano paradossalmente meno soldi, ma maggiore attenzione anche negli acquisti. Adesso si sperperano, no, soldi così. E poi quando io difendo la Liga, no, sul fatto che qui che è un vero campionato allenante, perché qui tutti vogliono giocare a calcio, e anche le squadre più piccole, poi ogni tanto prendono in barcata 6-7 gol, però il tentativo, il pensiero, la filosofia di voler sempre giocare a calcio alla fine porta a qualcosa, perché guardiamo anche la nazionale, cioè la nazionale inglese è un disastro. La nazionale inglese è un disastro per molti fattori, primo dei quali probabilmente aveva ragione Harrison quel giorno che disse: giocando a questi livelli, a questi ritmi, per così tante volte, perché in Inghilterra non c'è la Coppa Italia, c'è l'FA Cup, che è una cosa diversa, c'è la Coppa di Lega, lì ogni partita è una battaglia all'ultimo sangue, non c'è niente che si lascia per strada, non ci sono discorsi di turnover, di partite meno importanti, eccetera, eccetera. Volevo chiederti un'ultima cosa, Filippo, prima di salutarti. Sì. Stiamo parlando delle preferenze di Juventini e Gufi sul sorteggio di domani. In Spagna cosa vorrebbero i giocatori e gli allenatori delle tre spagnole rimaste in corsa? Evitare la Juve, numero uno. Tutti? Sì, la Juve si è guadagnata un grandissimo rispetto. Sì. E io ti dico, ovviamente, le tre squadre, diciamo, del mio paese d'adozione sono molto forti, però sono imperfette. Questa è una stagione chiave per la Juventus, perché voi la Juventus non è il Paris Saint Germain, che per caso gliene fa 4 al Barcellona, poi magari gliene fa altri 2 anche al Camp Nou. Io spero che la Juventus possa davvero conquistare il trofeo. Per cui, detto, tu mi hai chiesto qua, evitare la Juve, e il Leicester sembra essere la squadra favorita, e il resto siamo tutti a un buon livello, insomma, ecco. Non vedo comunque una squadra dominante, no? Barcellona, no, e Bayern, non vedo nemmeno un dominio chiaro, no? No, non c'è un dominio chiaro, se non appunto sulla spinta dell'emotività di quella remontata del Barcellona, però mi sembra che stia vagamente un pochino evaporando, anche visti i risultati di campionato. Hanno perso la partita successiva, no? Sono due partite che Messi non gioca bene. Pazienza, è bellissimo, che stesso si parla di un Messi in crisi, così. Sono due partite, perché fino a quella prima della famosa remontata era stato spettacolare, per cui... magari si riprende dopo domani. Sono quisquiglie, direbbe Totò. Esatto. Sulla carta in persona resta sempre uno squadrone, però ecco, non c'è la perfezione. Non vedi una squadra che dici: porca miseria, se mi tocca quella squadra non passo. No, infatti, questo è un anno molto particolare. La Juve deve approfittare. Io lo spero, da italiano all'estero, per squadre italiane, spero che ce la faccia, perché farebbe bene a noi, certo. E in generale, insomma, ci serve. Non posso continuare a vincere le spagnole, no? Sono 5 anni che hanno 3 squadre nei quarti, e sono 3 anni che vincono tutti i trofei. Adesso l'Europa League la vedo male, perché c'è solo il Celta che magari esce anche stasera. Sì. Però ecco, in generale spero che anche in Champions ci sia un ricambio. Un'inversione. Stiamo tutti aspettando questo ricambio. Grazie Filippo, alla prossima. Ciao Phil. Ciao. Allora, ci fermiamo al CIDE. Marco e Alberto, aspettateci per favore. Sono ascoltatori già in linea, 800 24 00 24, e poi state con noi, perché dopo il GR le ultime sul closing, non closing, mica closing, forse no, del Milan. Convocati. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Convocatissimi Marco da Rimini, Alberto dalla provincia di Reggio Emilia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Juventino o gufo? No, no, Juventino, assolutamente Juventino. Bene. E volevo anche sottolineare, diciamo, quella che secondo il mio punto di vista è l'inutilità del gufismo, perché fondamentalmente è anche un po' dannoso. Dico del gufismo nazionale, logicamente. Io quando ha giocato il Napoli, tifavo Napoli, dico la verità. Ma io sono io sono molto laico, sono molto democratico da questo punto di vista. No, ma è solo per il ranking, e per quantomeno l'immagine dell'Italia in Europa. Ma il cuor non si comanda. Questo sicuramente. Marco, il cuor non si comanda, cioè se uno... Io penso che non ci sia un solo interista, o comunque saranno mosche estremamente rare, sono farfalle preziosissime, quelle nerazzurre che tifano Juventus nel prossimo confronto di Champions League, questo glielo do per certo, eh. Attendo smentite, 800240024, dica. Venendo al discorso sorteggio, io credo che se l'obiettivo tuo è quello di vincere la Champions come quello della Juve, almeno due fortissime le devi incontrare. Quindi, partendo dal presupposto che secondo il mio punto di vista, se il problema è molto grande, il tempo a disposizione più lungo è a mio favore, io penso che anche incontrare una delle fortissime questo turno non sia una cosa sbagliata, perché hai più tempo per poter metabolizzare eventualmente una sfida molto... Guardi, io le dico una cosa, il Bayern Monaco preferirei affrontare in sfida secca piuttosto che su andata e ritorno, questo è un mio parere personale. Il Real Madrid delle grandissime mi sembra la più, insomma, incompleta, diciamo, la più abbordabile. E quanto al resto sono d'accordo che eviterei Atletico Madrid e Monaco per varie ragioni. Prima, perché affrontare le squadre di Simeone è sempre una grana pazzesca, e il Monaco per le ragioni di qui sopra, cioè è un Leicester che corre leggero ma con molto più talento, con molta più classe, con molta più imprevedibilità, e ha tutta la faccia della sorpresa stagionale. Hai visto mai che in finale possono arrivarci loro? E allora una finale, metti, ma stiamo facendo totalmente fantascienza, neanche fantacalcio, una finale Juventus-Monaco sarebbe carina, non sarebbe male. Questa è la mia idea su quello che può capitare. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io eviterei tassativamente l'Atletico Madrid. Tassativamente. Perché è una squadra che non è mai morta, e se per caso fa un gol, difficilissimo farglielo. Sì, questa è la loro caratteristica, è un po' quello che ho detto adesso, cioè l'Atletico Madrid è comunque una squadra rognosa, una squadra tignosa, una squadra che anche quando sei in finale ti porta allo sfinimento. Conosciamo bene le caratteristiche di questa squadra, non è una novità al massimo livello continentale. Ripeto, eviterei il Bayern Monaco sul doppio confronto. Questa per l'appunto rimane una mia idea. Andiamo su fronte Mina, ragazzi, perché qui ne stanno succedendo di tutti i colori, o meglio non succede proprio nulla. Marco Medrinazzo da Sole 24 Ore, buongiorno. Eccomi, ciao Carlo, buon pomeriggio. E allora? Notizie di oggi? Piatta, notizie di oggi che non ce ne sono, nel senso che... No, non c'è, più che altro non ci sono i soldi. Sì, i 100 milioni insomma, non sono ancora arrivati. Ho un messaggio che recita: Berlusconi ha beccato gli unici cinesi che non sanno fare un bonifico. Il problema è intanto fare il bonifico quanto avere quello da metterci sopra per fare il bonifico, e quindi il signor Lee, come abbiamo raccontato nelle ore più calde delle scorse settimane, è rimasto sostanzialmente solo. Abbiamo letto questa mattina di questa notizia riportata dalla Repubblica relativa a Ghedini l'avvocato di Berlusconi, che sarebbe andato a portare le carte in procura in maniera preventiva, sì, a proposito della tracciabilità dei 200 milioni fin qui versati per fugare qualsiasi dubbio su possibili Io lo vedo come un passo doloroso, no? Prima o dopo qualcuno ci ficca il naso per le carte. Assolutamente, quindi. Assolutamente, e l'abbiamo sempre detto, insomma, che tutte le verifiche antiriciclaggio e tutte le verifiche sulla tracciabilità di questi soldi vanno fatte, andavano fatte e andranno fatte a maggior ragione. Mi ricordi da dove arrivavano quei soldi? Da quale paese? La prima parte sono riusciti, insomma, a uscire dalla Cina, perché non c'era ancora la sede dei capitali. La seconda caparra, quindi 100 milioni dalle Virgin Islands, da un conto di Warong, che aveva prestato i soldi alla cordata. Poi, a quanto pare, questi soldi sono tornati, sono stati restituiti in quanto al prestito, quindi da parte del signor Lee e di altri finanziatori, però sono arrivati appunto dalle Virgin Island, ex paradiso fiscale, nel senso che ora, con la stretta che c'è a livello mondiale sulle piazze offshore, c'è meno la possibilità di creare scatole opache al passato, e quindi quello è stato il tragitto di questi 100 milioni. Invece, per quanto riguarda questi 100 milioni, dovrebbero passare dai veicoli di Hong Kong e Lussemburgo, sappiamo, le società rossoneri create da Li Yonglong, e si attendeva a ore questo versamento per poi far scattare tutta la procedura con il nuovo contratto, del nuovo closing da fissare intorno alla metà di aprile, c'è chi dice il 7 aprile, chi dice il 15, ma insomma, prima dovevano arrivare i soldi che non ci sono ancora visti, aspetta domani o lunedì, tra oggi e domani è la prima scadenza, insomma, per quanto non si è mai parlato di vere e proprie scadenze, in effetti metà di questa settimana, e vediamo nelle prossime ore cosa ci regalerà questa soppopera. Questa appassionante vicenda. Senti, ti faccio ascoltare le parole di Pier Silvio Berlusconi, invece, che ieri ha detto: ma se alla fine i cinesi si danno alla macchina noi soldi, ovviamente ci teniamo, perché al caparra è cosa fatta, ricordiamo che sono soldi che vanno alla Fininvest, e mio padre potrebbe rimanere al suo posto su quella seggiolina a San Siro. Ma io in realtà non ho informazioni dirette, quindi leggo sui giornali quello che voi già sapete. Io penso che tutto stia andando avanti e che in tempi brevi il closing ci potrà essere. Ma ovviamente non una situazione piacevole, perché presa una decisione importante anche a livello sentimentale, quale quella di vendere il Milan, poi trovarsi ad un passo dall'avvenimento e dover cambiare strada è difficile, però un danno vero e proprio non penso. Il Milan è il Milan, mio padre è stato l'anima del Milan e andremo avanti ancora con entusiasmo. Senti, ti faccio una domanda brutale: in questo momento, a quest'ora di questo giorno di marzo, quante sono le probabilità che Berlusconi rimanga presidente del Milan? È evidente, io non te lo so dire, ma è evidente che più passano le ore, più è uno scenario che si va concretizzando, perché in questo momento, diciamo, avremmo dovuto avere il nuovo presidente del Milan cinese già in carica da diversi giorni, se le cose fossero andate come c'era stato raccontato. Se le cose non sono andate come ci hanno raccontato, evidentemente ci sono problemi seri, molto più seri di quello che finora appunto è stato fatto apparire, e quindi di conseguenza più passano le ore, più questi 100 milioni non arrivano, più queste possibilità, questa probabilità aumenta, in un contesto in cui sia Fininvest che Sino Europe si dicono tranquille per il closing. Sì, possono dirsi tranquille finché vogliono, poi è una tranquillità ostentata, una tranquillità che mi sa tanto di facciata. Sì, ha la garanzia chiamiamola. Fininvest intanto ha incassato dei soldi. Fininvest intanto ha incassato dei soldi che sono 200 milioni, qui i bonifici sono arrivati per tempo e quella è cosa fatta, punto e a capo. E poi si discuterà di un eventuale governo Berlusconi bis che sarebbe fatalmente improntato ad una prudenza economica che è quella che abbiamo notato negli ultimi anni. Andiamo su altri due temi rapidamente, Marco. Quanto sì. guadagna la Juventus che va ai quarti di finale senza alcuna accompagnatrice italiana? Siamo già ad un record, perché si va avanti a suon di record per i bianconeri sul fronte 100 milioni, negli ultimi 5 anni, quindi senza questa Champions, la Juve aveva incassato nei precedenti 5 anni, pur avendo partecipato 4 volte, 205 milioni, più del Real Madrid, che ha vinto 2 coppe dei campioni, che si era fermata a 200-201 milioni, perché doveva spartire con altri contendenti, come questo strambo insomma, meccanismo di distribuzione dei premi, poi in particolare quelli legati al market pool. È chiaro che anche quest'anno la Juve, indipendentemente dalla vittoria della Champions, sarà la squadra che incasserà di più, proprio perché può beneficiare del montepremi televisivo italiano, che è tra i più alti insieme a quello inglese, ma di fatto potendolo utilizzare praticamente da sola. Uno, perché appunto ha avuto solo il Napoli a fare da ancella, da scudiero fino agli ottavi, e d'ora in poi sarà soltanto la Juve a poter mettere le mani, quindi più andrà sul avanti la Juve, sul meno soldi prenderà il Napoli rispetto appunto alla voce market pool. Certo, market qualcosa pool. Cambierà su questo, anche su questo fronte, con la nuova Champions, quindi fra 2 edizioni, e credo che sia anche poi più giusto, per dare anche un maggiore equilibrio, perché altrimenti davvero si finisce per creare un divario economico importante anche all'interno dei campionati nazionali. Cose che già esiste da tempo, con cui facciamo i conti già da diversi anni. Mi spieghi la frase, per finire la nostra chiacchierata, mi spieghi la frase comparsa sul Corriere dello Sport e attribuita al ex presidente del Palermo Zamparini, prego che sia tutto vero, riferito al nuovo presidente del Palermo. Lo dovremmo pregare, cioè, se deve pregare lui, figuriamoci insomma, in particolare i poveri palermitani, nel senso che Zamparini ha venduto tra virgolette il Palermo già una settantina di volte, e praticamente tutto il mondo, perché ha annunciato vendite ad arabi, russi, sceicchi, appunto fondi americani. Ora è apparso questo simpatico ragazzo nominato in pectore presidente, che da qui a fine aprile dovrà dirci chi compra il Palermo, chi sono i suoi finanziatori, e qui diciamo, a parte davvero la parte ironica, c'è da dire che bisognerà davvero mettere le mani a qualche forma di regolamento, come esiste in Inghilterra, per disciplinare le transazioni legate ai club, perché non si può aspettare di avere poi un contratto vero e definitivo e assistere a queste situazioni. Sbaglio, ma c'è già una norma, che prevede in caso di dei punti del programma della presidenza federale, della presidenza Federcalcio, maggiore trasparenza nelle transazioni. Parma, di ricordare allora Carlo il buon Mamenti, perché tecnicamente, guarda un po', bisogna aspettare che ci sia il passaggio vero della proprietà, quindi non basta un inizio e una trattativa, non basta un contratto preliminare, no, io credo basta, però che basta mai. Insomma, le carte italiane non bastano mai, appunto, e quindi in FA Cup, se vuoi comprare un club, presenti un'offerta concreta, ti presenti quell'offerta, dai delle garanzie, se viene accettata dal club, passa alla federazione, passa attraverso la Lega, al vaglio di tutti i requisiti, e viene quindi sospesa la trattativa fino a che arrivi questa autorizzazione, e dopo si va avanti. Non ho visto negli ultimi anni trattative condotte, e mi riferisco anche al caso Milan, chiaramente, non solo al caso Palermo, ma potremmo citarne centinaia guardando indietro no, nel tempo. Ma come no, ma l'Italia è il paese delle fotocopiatrici, credo sia il paradiso delle fotocopiatrici, ecco, no? E allora, però, insomma, proprio per tutelare il bene collettivo, per darci un po' di senso della misura ogni tanto, poi le norme bisognerebbe scriverle bene, non basta scrivere le norme per dire che ci sono fatte delle cose, sapendo già che sono in qualche modo inapplicabili e non verranno mai applicate, perché altrimenti si prende in giro il sistema e si fa un danno alla fine per anche coloro che dirigono il sistema, sì, perché diventano poco credibili. Io speriamo che me la cavo, diceva qualcuno. Questo può essere il mantra dei tifosi palermitani in questo momento. Marco, grazie. Alla grazie, prossima. Grazie a ciao, voi, Carlo, ti abbraccio. Buongiorno. Ciao, Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. No, io ho telefonato perché, siccome ho sentito che prima parlava delle mosche bianche, nel caso ci fossero dei tifosi dell'Inter che non gufavano contro la Juve. Io sono interista, ma tifero Juve solo fino alla finale, mi scrive un ascoltatore. Sono super gufo nerazzurro avanti il Barcellona e gufare che non facciano triplete. Magra consolazione, ma è così. Luca da Brescia. Poi no, lei invece. Io gufo contro il Milan da sempre, ma mai contro la Juventus, perché è un fatto forse generazionale. Io poi ho avuto anche il fatto che ho lavorato tanti anni per la Fiat all'estero, per cui non potevo sputare nel piatto dove mangiavo. Quindi per ragioni aziendali, insomma, facciamo così. Esatto, diciamo anche per quello. Vabbè, vabbè. Allora lei riceverà a casa la mosca bianca di Radio 24, che non è nel nostro simbolo, non è nel nostro cartellone, ma la facciamo creare apposta. Andrea, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno Zenta, buongiorno. Io non so se quello che mi ha preceduto era una mosca bianca, io non so cosa sono, perché io no, sono tifoso del Torino. Tifoso del Torino, sì. E devo dire che però quando la Juve gioca fuori dall'Italia, io sì, tifo Juve, spero che la Juve vada bene. Ovvio sarà differente quando il Torino e la Juve si troveranno in finale di Champions fra qualche anno. Però, sì, fra due o tre anni, sì. Però... spero che per quello che ho detto di non essere riconosciuto da nessuno, perché rischio, ma... Rischia che cosa? No, le mandiamo una bella farfalla colorata invece a lei. La facciamo produrre da Radio 24. Tifoso Granata che tifa Juve in Europa. C'è il mio regista di oggi, almeno qui a Roma, Valerio Rocchetti, che mi conferma che non esiste un romanista che tiferà Juventus. Fa scuote la testa. Ma non c'è mica problema, eh. Cioè, ripeto, il gufismo ha anche un suo fascino, non lo disapprovo. Stefano Melocchero, buongiorno. Pronto, Stefano? Eccomi, pronto, ci sono. Sei una superstar. Sei chiaramente una superstar, ormai parlare. No, d'altronde se uno posso... Ma non è corretto dire superstar, io direi no, ma celebrity, celebrity. Naturalmente. Allora, questa sera cominci Celebrity Masterchef, giusto? Questa sera ci sono i primi due appuntamenti con Celebrity Masterchef, prima edizione italiana del fortunato programma su Sky 1, e io non si sa bene per quale motivo non è impiegata. Ma perché sei una superstar, è inutile. Però sono tra le celebrity, ragazzi, questo va detto. Sei tra le celebrity. Prima mi è capitato di vedere un video dove c'era Ancelotti che insegnava al cuoco del Bayern Monaco come si fa la carbonara. Forse ha ceduto un pelo con la cipolla, però questi sono gusti personali. Sì, tra l'altro io voglio dire, che sai cucinare? Noi chef stellati la cipolla nella carbonara non la mettiamo neanche. Dipende un po' dai gusti, insomma, sai, ormai la cucina è tutta contaminata. Senti, la prossima volta che vengo a Sky mi fai trovare qualcosa da mangiare, anche se è mattina. La prossima volta che vieni a Sky, la domenica mattina, su Sunday Morning, tanto finiamo a mezzogiorno, ci fermiamo lì e andiamo nella mensa di Sky, che è buonissima, e cucinano per noi, diciamo. Questo secondo me è la migliore scelta che accetto entrambi gli inviti. Intanto io sono in questo momento a Roma. Non ti ho incrociato sul pullman scoperto con Fiorello. Mi trovo... Ma l'hai visto il pullman? No, non l'ho visto. Sono qui alla radio a lavorare, Piazza Indipendenza. Se volete passare di lì. Siamo partiti da quei pressi, perché siamo partiti da Piazza della Repubblica. Stamattina c'era il pullman scoperto della conferenza stampa. Abbiamo fatto un bellissimo giro e abbiamo invitato tutti i giornalisti. Se tu me l'avessi detto saresti anche salito su quel pullman, perché è stato 10 mezzogiorno, perciò forse avresti anche potuto. Sì, avrei potuto, mannaggia. No, ma ti sei perso un meraviglioso giro per Roma e ti sei persa la sindaca Raggi, che si è affacciata dal suo balconcino, dal suo studio del Campidoglio, sì, e ha salutato questa simpatica, questa allegra brigata, questa comitiva che passava. Mi spiace non esserci stato, guarda. Stefano, no, dammi una battuta, sì, su Federer che asfalta Nadal ad Indian Wells, dai. Guarda, visto che abbiamo parlato di MasterChef Celebrity, noi guardiamo avanti e ti dirò che Federer adesso ha Kyrgios, che stanotte, mentre batteva Djokovic, si è mangiato una patatina fritta a bordo campo, che è una cosa, si è mangiato una patatina fritta? Sì, tu parlavi prima di mosche bianche. Kyrgios è veramente una mosca bianca, perché oggi questo a un cambio di campo ha visto uno che stava con un pacchetto di patatine a due metri dal campo, è andato lì, gliene ha presa una, ha messa in ketchup e se l'è mangiata durante il match. Quanto era quotato dai bookmakers inglesi? No, non lo so, non credo che avesse quotazione. No, meraviglioso. E adesso Federer a Kyrgios, è una bella partita, una gran partita. Gran partita. Celebrity, sì, ti abbraccio. Ciao, a presto, Stefano. Carlo, ti aspetto a Sky. Ciao. Arrivo. Ciao Stefano Meloccaro. Grazie a lui, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore a Milano, ovviamente Edoardo Avezzari in redazione a Milano. Ovviamente Andrea Roccavella che mi ha accompagnato in questo soggiorno, in questa vacanza romana qui negli studi di Radio 24, oltre a Gianmarco Ferronato, il nostro regista. Ragazzi, tutti convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao! Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!